denaro, sogni denaro, sogni denaro, sogni denaro. Ti spacchi la schiena per averli a fine mese, mutui da pagare, rate le solite spese, il conto che viene rosso, la tua solita ossessione, sono loro che ti servono e sono la soluzione. Soldi, grano, chiamali come vuoi, ce ne sono per tutti ma quanto pare non per noi. Timbra il cartellino, invidia il tuo vicino che gira col BMW, tu vai al lavoro in motorino. Ci metteranno gli uni contro gli altri sti cazzo di contanti, ma senza loro non si va più avanti. Fatti i conti in tasca e cerca poi di regolarti, ma se li trovi facili non riesci più a fermarti. Tutti quanti a dirmi l'importante è la salute, ma il mondo fuori gira intorno ai soldi e prostitute. Lavori anche a sabato e non ti basta il venerdì, è come Wu-Tang, cash rules, everything around me. Sogni denaro, sogni denaro, sogni denaro per un futuro meno amaro. Sogni denaro, sogni denaro, se pioveranno soldi non mi metterò al riparo. Sogni denaro, sogni denaro, sogni denaro per un futuro meno amaro. Sogni denaro, sogni denaro, se pioveranno soldi non mi metterò al riparo. Parenti, serventi, per soldi ereditati, debiti che portano a commettere reati. Soldi persi al gioco con mariti suicidati, soldi troppo sporchi anche per essere lavati. Amori soffocati perché senza bigliettoni, belle fighe che poi girano per mano dei coglioni, che non la villa al mare, la barca i macchinoni, e non venirmi a dire che non contano i verdoni. Il denaro da potere, ricchezze le puttane, caccia i soldi e porta a letto la più bella del reame. È il mondo del cazzo ed ogni cosa ha il suo prezzo, e sei disposto ad arricchirti usando qualsiasi mezzo. È l'evasione fiscale che mi permette di campare, spaccio cocaina solo per arrotondare. Ho preso una tangente ma non lo volevo fare, l'ho ucciso, avevo un debito che doveva pagare. Sogni denaro, sogni denaro, sogni denaro per un futuro meno amaro. Sogni denaro, sogni denaro, se pioveranno soldi non mi metterò al riparo. Sogni denaro, sogni denaro, sogni denaro per un futuro meno amaro. Sogni denaro, sogni denaro, se pioveranno soldi non mi metterò al riparo. Con le rime cerco fama, è inutile mentire, non c'è scala nella vita che non si possa salire. Puoi comprare il suo corpo, non certo il suo amore, puoi comprare amicizie, non l'affetto e il calore. Puoi comprarti il lusso e vivi come un attore, anche se vengo dalla strada so di essere migliore. Qua si tira a campare, qua si tira la cinghia, della vita che facciamo il ricco non sono una minchia. Sogno dentro il cassetto, presente che mi va stretto, mille fantasmi che mi avvolgono quando vado a letto. Hai perso i valori, è meglio che resti zitto, chi ha l'amore con il cuore non ci paga l'affitto. Ha un lavoro precario, con la banca un calvario, butti parte della vita dentro lo straordinario. Forse il nostro momento non arriverà mai, ma spero tanto che il mio sogno mi sollevi dai guai. Sogni denaro, sogni denaro, sogni denaro per un futuro meno amaro. Sogni denaro, sogni denaro, se pioveranno soldi non mi metterò al riparo. Sogni denaro, sogni denaro, sogni denaro per un futuro meno amaro. Sogni denaro, sogni denaro, se pioveranno soldi non mi metterò al riparo.